My father name was Elijah, and my name is Non so mica se mi ricordo come si fa, A parte che la sigla non me la ricordavo così. Ah no? No. Quale si ricordavi? Quella ta ta ta ta ta ta ta ta. Vecchia, eri giovane, Il remix live è di Duccio. Ritorna Ragnar Paisa sulle frequenze di Controradio dalle 21 alle 22:30 tutti i lunedì. Ritornano i contatti sulle cuffie anche, attenzione. Anche? Sì, sì. Ora ti do il numero di telefono di contatto della cuffia. Devi stare tutta la trasmissione così. Sto tutta la sera così. Quello è il braccio destro di cui parlavano nello spot. Braccio destro di diavolo. www.ragnampaisa.blogspot.com. Se ascoltate questa trasmissione per la prima volta, quello è il posto dove potete andare a trovare tutte le trasmissioni in archivio, i mix speciali, un sacco di roba. Nell'estate ne avete pubblicata diverse. Sì, sì, sì. Ora aspetta, perché mi sa che vado a ritroso. L'ultimo mix che abbiamo messo è quello di Duccio, Summer Breeze. E prima che... Ah, poi c'era il mix di Duccio, Colossius e DJ Blag, yes. Electro Augustus. e prima di quello mi sa che l'ultimo era... Avevo messo su il terzo volume mio della fantomatica serie Place All This. Yes. Per il resto succede in questa trasmissione, come più o meno in tutte le puntate, che i quattro DJ principali di Ragnar Paisa, Duccio, Tommy, Biga e Colossius, si alternano in console, tranne rare eccezioni. E stasera, essendo la prima puntata, volevamo un po' festeggiare, c'è un'eccezione. It's a celebration. Esattamente. In realtà, con questo mix non celebriamo solamente il fatto che Ragnar Paisa sia ricominciato ufficialmente stasera, ma che questa è anche la settimana in cui riparte Ritmo il sabato sera. Saluti a Pizzo. Yes. Ci starà scontando lì con un piede sulla culla. Saluti. Come va il Pisa Calcio quest'anno? Perché da questo dipende il suo morire. È chiaro. Spero che abbiate sentito i commenti in background. Anatemi dalla curva. Per celebrare il fatto che Mixology è ricominciato venerdì scorso, la Gran Paesa comincia oggi, Ritmo comincia sabato prossimo, ci ritroviamo tutti appunto sabato 1 ottobre al Cargo di Firenze a suonare assieme a un olandese giovane che ci era piaciuto molto nella sua prima apparizione a Fabbrica Europa lo scorso 7 maggio, Mr. James Zhu dalla Kindred Spirits. In quell'occasione si era esibito in un DJ set, volevamo riportarlo a Firenze soprattutto perché ha preparato un live nuovo in previsione di questo album che sta per uscire sull'etichetta di Amsterdam, e quindi in questa occasione gli abbiamo chiesto un mix speciale ed esclusivo che potrete sentire appunto stasera dentro Ragnar Paisa in anteprima, poi dentro Ritmo e anche dentro Mixology. con 20 minuti di anticipazione di cose che usciranno a breve. Un paio di remix suoi per artisti come Sush e Traffic Swedes. È una traccia firmata proprio da lui che farà parte appunto di questo album in uscita su Kindred Spirits. Si chiama No Face Topo. No Face Topo. Prego? Dire. No, c'ho problemi alla no buffe. Face Topo. Ah. Non so che cosa voglia dire. Vai, sabato gli si chiede. Sabato lo scopriremo. A James. In realtà Mr. James Wu arriva prima, arriva in aeroporto venerdì pomeriggio a Pisa. Direte voi a noi che ce ne fotte. No, nel senso che venerdì sera si ferma a Pisa e suona con gli amici di Black Friday al cantiere San Bernardo, appunto, di Pisa. Andiamo? Facci sentire il mix di James, va. Vai, maestro. La situazione sta degenerando. È tutto tuo. See, things get better, you can't. Responsible. Oh, yeah. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Ooh, no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute, that's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Ooh, no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Yes, of course, I remember. How could I forget how you feel? You know, you were my first time, a new feel. It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Ooh. Ehi, hey Mitch, se sei all'ascolto, grazie, fantastico il mix. Tutta la tracklist naturalmente da domani, quando sarà postata tutta la trasmissione. Te l'ho già mandata via mail, eh? Addirittura? Madonna. Quella di stasera non la scrive nessuno. Che professionalità, no, ma figurati. Ci si pensa domani. Sì, bisognerà riascoltarla quella 20 volte per sì. Segnare tutti i pezzi. Era il mix speciale per Ragnar Paisa di James Zoo, venerdì al Cantiere San Bernardo di Pisa, sabato al Cargo di Firenze. Yeah. Siccome è rimasto poco tempo, chiacchieriamo poco, sentiamo un sacco di musica buona, 4 set da 15 minuti per tutti e 4 ore. Va bene, dottore. Comincia Colossius, buon ascolto. Yeah, yeah. Practice your part of the song. We'll be right back. vai. Non c'è tempo da perdere stasera, giusto il tempo del passaggio di testimone dal nostro Colossius a Duccio, già pronto lì a selezionare per un quarto d'ora per voi. Mentre il nostro orologio fa un quarto alle 10, giusto per ricordarvi che siamo in diretta sulle frequenze di Controradio. Vai, vai! Stands out like a creature from another time. It inspires the baby's questions. What's that? For their mothers as they rhyme. But no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. How would we ever get over just 30 miles from Detroit stands a giant power station. It ticks each night as the city sleeps. Seconds from annihilation. Yeah, it's for the people. This is street radio for unsung hero. Riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found a new primo. Yeah, you know how we do. We do it for the people and the struggle of the brothers and the folks. The lovers of the dope. Experiment to discover hope. Scuffle for notes. The rougher I wrote, times was harder. Went from rock starter to the voice of a martyr. Why white folk focus on dogs and yoga? My people on the low end trying to ball and get over. Lyrics are like liquor for the fallen soldier. From the bounce to the house, it's all our culture. Every day we hustling, trying to get them customers. Law, we ain't trusting them. Thick bras, we lusting them. Sick and tired of punching it. I look on the bus at them. When I see them struggling, I think I'm touching them. The people. About the people. For unsung hero, riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found a new primo. Yeah, you know how we do it for the people. The people said that I was sharp on TV at the Grammys. Though they tried to India, I read me. Got backstage and I bumped into Stevie. He said, no matter what, the people gon' see me. Can't leave rap alone, the streets need me. Hunger in their eyes is what seemed to feed me. Inside peace mixed with beef seemed to breed me. Nobody believed till I believed. On the rise, doing business with my guys. Visions realized, music affected lives. A gift from the skies to be recognized. I'm keeping my eyes on the people, that's the prize. Come on, Pete. Cruise with me. Trouble ain't no place to be. Come on, Pete. Do your thing. Come on, Pete. Do your thing. You all know Whitey's game. Come on, ladies. Come on, run. Come on, legs. Come on, run. Guilty's what he say you done. Come on, knees. Don't be mean. Come on, knees. Don't be mean. Ain't first red you ever seen. Come on, feet.

to say, my dear, baby. Yeah, yeah. So glad you're mine. Oh, oh, oh, baby. Why did it take so long? Oh, baby. Only made my love grow strong. Yeah, yeah, I'm so glad you're mine. Yeah, yeah, yeah, yeah. When darkness gathers around me and friends forsake me, I know you'll never let me down. I know you'll never let me down. Caro Duccio, una curiosità: nel tuo set quante robe sono finite da quelle che ti sei portato in vinile da Brooklyn? No, da Chicago. Chicago. Boh, forse tutti. Tutti? Perché in realtà non ho avuto tempo per preparare niente. Ho preso una ciaffata di dischi. Di quelle che avevi poggiato tipo sì, entrando dalla porta a destra. No, in realtà sono appoggiati dappertutto. Però no, questi erano già in borsa. Ok, quindi una scaletta studiatissima. Sì, proprio studiatissimo. La cosiddetta ciaffata di dischi schiantata in borsa. Per Duccio vale quello che vale anche per tutti gli altri selecta di Ragnar Paisa. Per sapere cosa ha suonato, a parte i classiconi della fine del set, potete naturalmente andare su ragnarpaisa.blogspot.com. Esatto. È pronto di là Tommy, si becca 15 minuti di caldo nell'acquario, voi vi beccate quello che ci suona lui. Yo. Do it. Church music, tip your wine glass to it. So foolish, red fluid in plastic cups. Club packed like Shaq in a Zion truck. The boys back rely on us to reply with that dopeness to drug you up. Fly freaks want a wall, no calls. Leave it at the beat. Long line outside, but we VIP. Long grind all week, celebrate free. Like masturbation, I'ma do me. Baby, do you cut off jeans, earring hoops, pose like a photo shoot. Me and Mad Lib, two bottle, four glasses. With 10 models fighting over two passes. Damn, trying to hang with the what's happening now. M.E.D. a Rhythmatic. Bad gangsta shit. What you want, huh? Bad gangsta shit. Now what we live, huh? Bad gangsta shit. Recognize my presence. This rap game specialized for legends. I drop shit, niggas try to memorize the seconds. You criticize me, still visualize the lessons. And one of us to put aside the questions before they find out who's the realest. Who done spoke without one joke about the illest shit that ever happened. And this rapping beyond rapping. Joe the guard, it ain't so hard to start clapping. But I lay low, create flows for the pesos. Now we got extra hoes, one in the chase shows. I take foes and break them down to minerals. We went from street corner thugs to white collar criminals. Individuals with no peace on the quest. I iced out peace on my chest from the east to the west. Never sleep in the sweat, keep the heat with the vest. Ready for the occasion, blazing, getting deep with the best. The police will attest my strategy. Got half of the world mad at me, but very few challenge me. Perhaps you will be the first to approach this lyrical dope shit. Cartagena arena blowing like explosives. What you love, huh? That gangsta shit. What you want, huh? That gangsta shit. Now what we live, huh? That gangsta shit. That gangsta shit. if she could get it, everybody go to hell. I don't need y'all, disrespect the dawn, and I'ma see y'all. Hit you with the tech in the arm and your seesaw. Yo, what up, though? Y'all listening to Elmatic. Fire that weed up and put it in the air. Rock to move into a rich block. Find somebody up in your crib, you gotta switch locks. Niggas pull triggers and ditch clocks. Overthings a bitch jock, as sick as a Hitchcock flick to be the big shot. Lips appealing, the life of crooks, getting money off the books. Fuck a shook civilian. We took the illin' and mistook the feeling of climbing to the top, staying when you don't know where the cops laying. Loaded guns pop spraying just to get their hands on your clock to stop swaying. Enough to cause the both of your knees to drop praying. Niggas stop playing, cause I was told to represent. But OG's claiming a D and reppin' Flint, pushing old school whips on 20s that kept it thick. Represent, represent. Type of fella, bomb smoker, pipe in hella, keep a strong poker, face playing my cards right, fuck a case, cops are running your place, for hard white, treat you wrong, poke you, with the nightstick, I know these snitches telling, in fact, I'm smelling a rat, and the aroma's quite thick, they shut down your light, lick right quick, charging you with shit that might stick, thought you was Frank White, slick, the joke's on, all you little niggas with lokes on, counting your fingers down and liquors, getting your smokes on, representing for the hood, putting your city on the map, young girls, throw they kitty and they titties on your lap, catch you slipping while you tricking, stick the clipping, they get paid and leave you sicker than that A symptom. They playing man like fools, feel the heat from the tools. Empty out your wallet, take off your jewels. You know the rules. Represent, shit. Represent. No doubt, you see my stats is fat. This is what it's about. For she's perhaps quite clever. On the mic, I'm a wizard. Call me Chris Webber. Scary wise, I'm way past terror. I make like Jay-Z, then Rockefeller. Rock him out the club, then buy him a bottle of champagne from the bar, compliments of E-Dub. I be the one to cause the confusion. Twist your mind to pieces, make you think illusion. Niggas try to provoke me, but I'm a child of God, so it ain't no hope, me. Bitches like go eat, so I resume. If they step, I buck a shot like I'm Black Moon. Let me ask you, y'all feel that like Erica? Control the states and make a deaf America. My style legit, peep the steez a bit, it's official. Like a licensed 45 pistol. Word to the preacher's wife, I got the power to anoint and keep them shifty folks on point. I'm the butler, serving them seeds because I love to. And oh, quote, yo, you a customer. I put you in your right mind and frame. I derail tracks and rappers like Doc designed to train. All aboard with the Death Squad if you can hang. My name be precise range when I aim my flame. Fuck a gun. When I was 12, I was busting them. Young just wanna have fun like little Justin them. But Doc never trusted them hoes. Double cross me foes. I take it to the nigga started you hustling. Whether it be weed, dope, or coke. My athlete flow make Doc shows soap his toes. Make niggas bow down when I'm drunk off Gold Crown. Pull out the pound, bust off my round. Jump out a tree, land on your neck. From the moment you start pumping Red Man in your deck, you be like, damn, this what I ride for. If I apply more pressure, it'll snow on July 4th. Sun spark the spliff, park the fifth. The tracks make acrobats lose their arch and shit. If you came to brawl, we love to get involved. My squad make it hard for all white people to draw. MCs, it's the final countdown. You look tired, can you go around? I slap your hands to give you credit. Then if not, I turn around and say, you get it. It's Eric Sermon. No need for those to guess, y'all. I confess, y'all, when I spit that. I gotcha. When the groove hit, no stopping ya. Tear the club up like 3-6 Mafia. I'm real. React when it's time to peel. Step if you want it, come get it. Come with it, what the deal? Your dog, I roll tight in my stinking Lincoln with black frames. Gray interior with the wood grain. And two stash boxes for funds and guns. I don't own a Uzi, but my 9 weighs a ton. Kid, we be the more deaf as no squad can catch us. We taking the drastic measures to fulfill the pledges. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Yeah. When I turn 108 with wrinkles in the face, my name will still be in debates about who was great. I make your tire lace two times when I create, cause when I begin to get slick, I sweat Quaker State. We read the hard way, tight like little Jamal's face. You orphans, I walk through your church without no parlay or permits. Fuck your white picket fence, I'm from the hood, keeping it tense on 17 inch. I'm strictly convinced y'all puss, flipping crack, say that. I keep my money stacked, ghetto diplomat style. Order it now, no refunds, I'm like a clip of jumps. I move crack fiends with different vows. Even technicians can't repair the mic I spit on. I'm too underground to dance with that shiny shit on. No call National Guards and trucks, and they weapons better be big as fuck. Shadow light from the Wu Mansion, still branching off the tree that sparked in EMC. And the fruit that fell far was the ripeness. Get with Cypress, let the media hype this. Promotion niggas snipe this. Push it like trade bags in 72. Kept niggas in suede rags, microphone psycho. Who flips the mic so well? Hell without bell. Engines packed like jail cells, there's no escaping. Once my blade starts scraping, niggas flaking. Wannabe MCs are shaking. My sword indeed make more niggas bleed. So swift, neck and eye couldn't record the speed. I lost ya with that offer, nigga that'll cost ya. Fill the strings of torture. Must have been a half gallon of shitty drinking. They got him thinking that he can trash the ship and get me sinking. I told him come back when you're sober. Drunk ass punk on a motherfucking hunt for Red October. Don't even catch me while I'm blunting. Rhymes start running like loops on an SV-12 honey. Instruments of terror on war shit was corporate. Visual niggas paint portraits. Yo, check the mic line for wiretaps. Young of attack, man, your station, take aim, proceed. Fire back, all hands on deck. Cadet vest, insert cassettes. Track snap heads like barrettes. Cash web slice like internet. Team, I detected vehicles approaching from the east. Passing infrared binoculars, captain, so I can see. Sound the alarm, call for the suicidal kamikaze ninjas with the bombs. Flash the neon, all we saw was flying arms. Anytime I come by, alumni, I cut short the air supply. Send them back like George McFly. Ah, beholding this, travel round like a motorist. Poisonous gas released from my track is odorless and tasteless. Like ghosts is faceless, which allowed the guard to break backs and beat 100 cases. MCs, heads weave like trees, and a breeze to rhymes like these. Underwater flows strike like torpedoes. You get plugged more than Del Rio, play short like DeVito. Split the fuck up like Mike Jack and Tito. Sword cut sharp when the Concord needles. Call my second private. Tell him write this important message for Cypress. I heard Yaku assisted on the island with Dr. Titus, and they just released a new deadly virus to infiltrate the western states. It's time to pump out more rap tapes and use the Wu-Tang symbol to communicate. Brother, open out, open out. No, ti stai sbagliando, non è Francesca. Non è Francesca, invece c'è Francesco. È arrivato? Come l'ho presa, è arrivato, ragazzi. No, è assente stasera, ingiustificato peraltro, Francesco. Non l'ha presa Andrea, però. Cioè, un Francesco c'è che comincia a suonare. Di lui dicevo. Ma io, siccome ci stavamo chiedendo dove fosse l'altro... l'altro non si sa, non pervenuto. Non pervenuto. Ma lo salutiamo. Sabato sera suonava al Cargo. Con gli amici di Mufi che salutiamo a proposito, salutiamo. E con voi, no? Salutiamo. Salutiamo il grana che è appena andato via. Qua c'ho il coffè che mi mette a posto il ciuffo ribelle. Siamo quasi ai saluti, eh. Com'è? Il tipo che c'ha la parrucchiera sempre dietro, non mi ricordo mai il nome, Duccio? Moody Man. Moody Man c'ha la parrucchiera dietro. C'ha la tipa, gli fa la pelle. Avrà qualche altro trick anche, però c'ha più capelli di te, vecchio. Te, un po' di più, a parrucchiere a te sarebbe un po' sì, sì, un po' inutile. Senti, io l'ultima volta l'avevo visto che girava con tre tipe, però nessuna di queste mi sembrava gli sistemasse i capelli. E vabbè, una aveva lo scopo di rimettere i vinili nelle custodie. Ah, okay. Una gli portava solo i cocktail e la terza lo asciugava quando era un po' sudato. Sì. No, giustamente. Te le mette nel roster, capito? Nel rider, quando ti arriva a te promuovere il rider. Quando c'è da pagare a fine serata, certamente. Ok, vi rimandiamo a ragnampaisa.blogspot.com da domani pomeriggio, ma la trasmissione non è finita, mancano ancora 15 minuti alle 22.30, quindi al GR di Popnet. Ve li passate come noi in compagnia del buon Biga. Vai, vai! Pra lá e pra cá, que corre pelo set. Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer brancar? Todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair, né? É justo, é Deus, o homem não. Não ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui tão de HK. Leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Thank you. lancio rime shuriken che brillano nel buio come starlight. Flashback sono moonshine nella zona twilight. Affitta di uno stalker se ti va di vederla. Sirene suonano conchiglie e madre bella. L'audio si deforma, da retta si trasforma in sperma. Caldo come l'acqua di una derma, non si ferma. Sul derma forma file di formiche nere che invadono il tuo karma. Uso il rap come un'arma. Modulo estraniante come in dune. Sabbie scure fanno un bad mandala. Stile non da gala, sale su come un bengala. Lo di melody congela, niente cumba mela. Melanina fluorescente inside, herba ride. Rifredi speaker zombie linea piatta. Porto il beep continuo, nel tuo orecchio mi insinuo. Sono come il gas nell'aria, di dolor sicaria. Flow sicario, scora radioattiva che ti balla in testa. Con scarpette da claquette, don't forget. Con lo scotch sulla moquette, disegno la tua silhouette. Il tuo tête à tête è outlet, let me go. Giro come il pendolo di Foucault. Evoco una zingara che ti maledisce. La verità più arcana del mondo sta sepolta in fondo al culo di una meretrice. Sono solo soldi, orgasmi finti con più pathos del teatro degli antichi greci. Leggo il futuro tra le mie feci. Lancio rime shuriken che brillano nel buio come starlight. Flashback sono moonshine nella zona twilight. Affittati uno stalker se ti va di vederla. Sirene suonano conchiglie e madreperla. Lancio rime shuriken che brillano nel buio come starlight. Flashback sono moonshine nella zona twilight. Affittati uno stalker se ti va di vederla. Sirene suonano conchiglie e madreperla. About these things. And yeah, let's start thinking what we're doing. Don't let nothing change your mind. Let's start heading homeward bound. Get off the ground, stop losing, yeah, losing. Keep rising to the top. Give it all you got. You gotta wake up, your body, wake up, your body, wake up, your body, and move it around. Dream.